95.0 Açık Radyo'dasınız. Itabella'dasınız. Haziran'ın bu ilk ve son programından İtalyan tangoları geçecek. Sizi Buenos Aires'in sokaklarından çizmeye doğru alacağız efendim. 1930'larda uluslararası bir başarı yakalayan bir İtalyan tangosuyla başlıyoruz şimdi. Daniela Serra 1930'ların iyi İtalyan şarkıcılarından biriydi. Şimdi kendisinden 1936'dan bir parça dinliyoruz. Scrivimi. Şimdi radyonuzda. Quando tu sei partita, mi hai donato una rosa. Oggi è triste fiorita come questo mio cuore, l'ho bagnata di pianto per ridarle la vita, ma il tuo amore solo tanto la può far rifiorire. Non tenermi più in pena, una frase, un rigo appena, calmeranno il mio dolore. Lasciarmi così, tu non scrivi e non torni, ti sei fatta di gelo, così passano i giorni senza amore per me, mentre folle ti chiamo. Forse un altro ti bacia, ed io solo che t'amo, devo piangere per te. Tua madre che mi scrive che tu sposi un gran signore, questo gerido addio è un insulto all'amor mio. Scrivi se Scrivi Me dinledik Daniela Serra'dan. 1899 yılında dünyaya gelen ve 1951 yılında hayata gözlerini Napoli'de yuman Enzo Fusco var sırada. Faşist rejimi öven çok sayıda şarkı seslendirmesiyle de meşhur olan ama elde ettiği müzikal başarıya rağmen devlet demiryollarındaki memurluğundan hiç vazgeçmeyen biri bu adam. 1935 yılından bir kayıtla Tangolita, şimdi Enzo Fusco yorumuyla radyonuzda. Un rosso fiore, un caldo cuore, due labbra che sanno ben baciare, sanno dar un brivido. E l'occhio nero, lo sguardo fiero, due braccia che sono tutte ardor, mio tesoro bellissimo. Sei bella come un fioro, Tangolita, oh Tangolita di Santa Fe. Per te questo mio fiore darei la vita, o tangolita, tu sai perché? Perché dal primo dì che m'hai baciato, al fuoco dell'amore tu m'hai dannato. E vivere senza te non è più vita, o tangolita di Santa Fe. La febbre d'ho d'andare so, un tango che ti darà nel cor un ardor terribile. A Santa Fe han detto che un tango c'è che laggiù lei fa, che ci dà lo spasimo. Sei bella come un fioro tangolita, o tangolita di Santa Fe. Per te questo fiore darei la vita, o tangolita, tu sai perché? Perché dal primo dì che m'hai baciato, al fuoco dell'amore tu m'hai dannato. E vivere senza te non è più vita, tuo tangolita di Santa Fe. Enzo Fusco'dan dinledik, Tangolita radyonuzdaydı. Sırada 1884 İzmir doğumlu Cristi Solari, yani Franco Leri var sırada. Henüz çok gençken Milano'da Serafino di Falco ile şan eğitimine başlayan Franco Leri, Vincenzo Bellini'nin I Puritani adlı oyununda Arturo olarak ilk çıkışını yapıyor. Şimdi Franco Leri'den Tango del Ritorno'yu 1936 yılından bir kayıtla dinliyoruz. Sperando ancora di trovar la mia fortuna. La rivedrò più bella ancora, e innamorata, e sorridendo dirò, son ritornata. Fortuna ritornerà, ma metto il cuore, la rivedrai, ma in vano aspetto l'amor, non torna mai. Türk tenor diye de bilinen Franco Leri'den Tango del Ritorno'yu dinledik. Nicola Salorno ve Gino Redi'nin 1939'da Oscar Carboni'nin seslendirmesi için bestelediği büyük başarı elde eden bir tango var sırada. Biz bu tangoyu Claudio Villa'nın muhteşem yorumuyla dinleyeceğiz şimdi. Tango del Mare radyonuzda. Perché questa notte mi inviti a sognar, mentre soffro e non so più scordare il mio perduto amor. Dimmi cos'è questa musica strana che tu dolcemente sussurri qua giù e fa più triste il cuore. Dal cielo scende su te come un manto d'argento, e in quest'incanto tristezza e pianto tremano in me. Forse sarà la musica del mare che nell'attesa fa tremare il cuore. Ora non mi veda e tu non vuoi tornare, che lacrime amare versare fai tu. Mare sei tu che una sera portasti al mio cuore in un sogno di nuvole d'ore che mai non scorderò. Corri laggiù, la sua sponda ritorna a baciar, se un istante la fai ritornar, la vita mia darò. Ma l'onda corre, non sa questa voce che implora, sulla scogliera lucente nera mormore va. Vorrei scordarti e non ti so scordare, può dirtelo il mare che soffro per te. Claudio Villa'dan Tango del Mare dinledik. Şimdi 1922 Livorno doğumlu müzisyen Luciano Virgili'ye kulak veriyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın başında askere alınca eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan müzisyen, savaştan sonra 1946 itibariyle tabiri caizse kendini müziğe adamış. çok sayıda tango seslendiren Virgili'den Il Tango del Cuore şimdi radyonuzda. Questo è il tango del cuore, del mio povero cuore. Poche note di pianto che gridano al vento il mio grande dolore. È lo stesso motivo che felice cantavo quando ancora credevo che fosse sincero quel perfido cuore. S'è preso tutto di me, i miei baci, i miei sogni, i miei sospiri, e ho lasciato di sé una bugia. Questo è il tango del cuore, del mio povero cuore. Poche note che han visto fiorire e morire il mio sogno d'amore. S'è preso tutto di me, i miei baci, i miei sogni, i miei sospiri, e m'ha lasciato di sé una bugia. Questo è il tango del cuore, del mio povero cuore. Poche note che han visto fiorire e morire il mio sogno d'amore. Luciano Virgili'den Il Tango del Cuore'yi dinledik. Ciddi bir hastalığa bağlı sağlık sorunları yaşayan Luciano Virgili, 1980 yılında şarkı dünyasından uzaklaşıyor ve çok kısa süre sonra 1986'da da Prato'da hayata gözlerini yumuyor. Ama biz şimdi ondan 1962 yılından bestesi Schreyer ve Botero'ya ait Maestro Angelo Giacomazzi Orkestrası eşliğinde Tango delle Rose'yi dinliyoruz. Là tra le rose in fior, l'idillio incominciò, e furon baci, carezze audaci, poi le follie della passione. Amo, ella sussurra, e un bacio ardente la fa tremare. E dal suo dolce amore sussurro io così. Amami, baciami con passione. Prendimi, stringimi con ardore. Coglimi, la mia vita è come un fiore, fiorisce presto e presto muore, e sol per te il mio cuore. Ma venne un triste dì, e il loro amor finì come una rosa dal gelo uccisa, la sua bellezza presto sfiorì. Falle nel giardin di rose si strugge in vano nel suo dolore, piange come allora, canta le perduto amore. Thank you. come un fiore. Fiorisce presto e presto muore, è sol per te il mio cuore, è sol per te il mio cuore. Luciano Virgili, Tango delle Rose ile radyonuzdaydı. Bir film yıldızı da olan 1924 doğumlu Achille Togliani var sırada. 1950'lerden sonra Parlami d'amore Mario, Bambina Innamorata gibi 30'ların ve 40'ların ünlü eserlerini yeniden yorumladığı, büyük ölçüde dokunaklı dizeler içeren romantik repertuarı sayesinde kısa sürede İtalya'nın en popüler yorumcularından biri haline geliyor. Şimdi 1959 yılında yayımladığı Il Tango della Capinera'yı Achille Togliani'den dinliyoruz. La ciurella Arizona, terra di sogni e di chimere, sei una chitarra suona, cantano mille capinere, hanno la chioma bruna, hanno la febbre in cor. Chi va a cercar fortuna, vi troverà l'amore. A mezzanotte va la ronda del piacere e nell'oscurità ognuno vuol godere, son baci di passione, l'amor non sa tacere, e questa è la canzone di mille capinere. Il bandolero stanco scende la sierra misteriosa sul suo cavallo bianco, spicca la vampa di una rosa, quel fior di primavera vuol dire fedeltà, e alla sua capinera egli lo porterà. A mezzanotte va la ronda del piacere e nell'oscurità ognuno vuol godere, son baci di passione, l'amor non sa tacere, e questa è la canzone di mille capinere. Son baci di passione, l'amor non sa tacere, e questa è la canzone di mille capinere. Achille Togliani'dan Il Tango della Capinera'yı dinledik. Şimdi sırada İtalyan müziğinin, İtalyan şarkılarının kraliçesi Nilla Pizzi var. 1951'de daha sonra dünyaca büyük bir üne kavuşacak San Remo Şarkı Festivali'nin birincisine katılıyor. Ve iki İtalyan hiti olan şu an Grazie del Fior ve La Luna si Veste d'Argento ile iki birincilik kazanıyor. Çünkü o zamanlar katılımcılar iki şarkıyla katılabiliyorlardı. Bu hayatında altın bir dönemi başlatıyor Nilla Pizzi'nin. Arkasından filmler, albümler, radyo yayınları giderek daha da başarılı bir hale geliyor. 1960'lara kadar devam ediyor ama kendi tabiriyle yeni müzik akımlarının ortaya çıkmasıyla alacakaranlığın belirtilerini görüyor ve Acapulco'ya yerleşip milyarderler için bir gece kulübü açarak devam ediyor kariyerine. Burada Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. gibi isimleri ağırlıyor. Biz şimdi Nilla Pizzi'den 1959 yılından bir tango dinliyoruz. Bir çingene kemanını anlatan Violino Zigano şimdi radyonuzda. Zigano dall'aria triste appassionata che fai piangere il tuo violino tra le dita suona ancora come una dolce serenata mentre pallida nel silenzio ascolterò questo tango che in una notte profumata il mio cuore ad un altro cuore incatenò suona solo per me. O violino zigano, forse pensi anche tu a un amore laggiù sotto un cielo lontano. Se un segreto dolore fa tremare la tua mano, questo tango d'amore fa tremare il mio cuore, o violino zigano. Tu che sogni la dolce terra d'Ungheria, suona ancora con tutta l'anima zigana. Voglio piangere come te di nostalgia, nel ricordo di chi il mio cuore abbandonò. Come il canto che tu diffondi per la via, con il vento la mia passione dileguò. Questo tango è d'amore, ma il mio amore è lontano. Suona, suona per me, pur se piango con te, o violino zigano. Nilla Pizzi radyonuzdaydı, Violina Zigano ile. 1940 Modena doğumlu Ozan, Francesca Guccini var sırada. Politik ve sosyal düzeyde kendini işine adamış sanatçının şarkılarının metinleri genellikle poetik bestelere benzetilir. 50 yıllık kariyerinde 20'den fazla albüm yayınlayan Guccini, aynı zamanda bir yazar, ara sıra bir aktör, film müzikleri bestecisi ve çizgi roman yazarıdır. Aynı zamanda akademisyendir. Şimdi böyle dile çok emek vermiş birinden şarkının şarkısını anlatan bir tango dinliyoruz. Tango Perdue şimdi radyonuzda. Coppia che sta silenziosa, un po' rigida e in posa, a ballare una sera. La vita è solo una cosa rimasta indietro, non c'è più ma c'era. Composta in domenicata, eleganza sfocata, raggiunta fatica. L'oggi ha cambiato facciata, ma di quel ieri passato io so che tante ne potreste raccontare e il ricordo stempere non guasta. Quante cose facce da narrare e come si dice un romanzo non basta. Nate con un rapido a domani, continuate in giorni di sì e no. Lampi sotto cieli suburbani e raffica il tango che vi presentò. Lui biella, stantuffo, leva, muscoli, grinta, officina, sole lei. Lei quiete, chitarra, vela,

forse aveva sulle labbra il mio nome, un po' di me. Forse sai non ci pensava, non mi ha nominato mai, mi vita con le mani sue adorabili vuote e calde ancora di me. Uno è passato, sì, ma era pazzo della vita e chi aveva fra le braccia non ti assomigliavano e cantava una canzone. Forse aveva nella mente una briciola di me. Non vorrei farti del male, ma pensavo solo a lei. Il mio amore disperato ile radyonuzdaydı. Sırada İtalyan şarkıcı ve oyuncu, yönetmen Domenico Modugno var. 1928 Bari doğumlu Modugno, babasından habersiz evden ayrılıp önce Torino'da, arkasından Roma'da sanat camiasına girebilmek için şansını denemeye karar veriyor. Tiyatro oyunlarında, sonra sinemada sivriliyor ve şarkı söylemeye başlıyor. Derken asıl şöhreti 1958 yılında önce Sanremo Festivali'nde birinciliği, arkasından da Eurovision'da üçüncülüğü kazanan son derece basit, akılda kalıcı şarkısı Nel Blu Dipinto di Blu ile yakalıyor. Daha sonradan bu şarkı adını kendi kendine Volare olarak değiştiriyor. En iyi şarkı, en iyi plak, en iyi şarkıcı dallarında 3 Grammy kazanan, 3 de altın plak ödülü bulunan Modugno'dan biz şimdi... Beni ilgilendirmez derken aşk acısından canı çok ama çok yanan bir adamın tangosunu dinleyeceğiz. Ocak 1981'de İsviçre televizyonu RSI'nin konserinden canlı bir kayıtla Domenico Modugno, Che ne me importa a me ile şimdi radyonuzda. Tango d'amore di gelosia, tango di disperazione. Questa è una delle canzoni mie che mia moglie dice che è la più brutta, ma a me mi piace però. Ho sempre litigato con mia moglie, questa non mi piace, a me mi piace, tango d'Armando. Ieri la mia ragazza per dispetto è andata a passeggiare con Armando, però se crede che io me la prendo con un'altra me ne vado a ballar, che me ne importa a me, ah, ah, ah, ah. Può far quel che le va, ah, ah, ah, ah. Son duro e lei lo sa, per questo non ci sta, ma mi ama di più. Le ho detto mille volte, guarda, non me ne importa niente, io sono indifferente, puoi far quel che ti va. Tango d'amore che l'avrò chiamata circa un 30 volte, sono 30 volte che non mi risponde. Mi han detto che l'han vista con Armando per la strada l'altra notte alle 3. Che me ne butta a me, ah, ah, ah, ah. Può fare quel che le fa, ah, ah, ah, ah. Son dure le ossa, per questo non ci sta, ma mi ama di più. Però se te la vedo con quel zuzzerellone, gli mollo uno schiaffone e lo faccio rotolare. Tango, tango d'amore, che fai soffrire il cuor di chi si ama. Tango del mio dolor. Sono 3 mesi che ci siamo lasciati, sono 3 mesi che io sto soffrendo. Mi han detto che si sposa con Armando e lo sapevo che finiva così. Che me ne importa a me, può fare quel che le fa. E Armando non lo sa che questo lo fa per far morire me. Colei che lui si sposa, colei che sembra un giglio, con me ha fatto un figlio e Armando non lo sa. Tango, tango d'amore, tango del mio. Domenica Modugno, il tango d'Armando adıyla da bilinen Che Me Ne Importa Me ile radyonuzdaydı. Sırada çok enteresan bir tango var bence. Bosnalı sanatçı Goran Bregovic'in 2004 yılında yayınladığı Carmen With A Happy End albümünden Carmen Consoli yorumu dinleyeceğiz bir tane. Sicilya diyalektinde bir tango olan Fuoco di Raggia şimdi radyonuzda. Dicevi che l'amore mia galera ora si incatena d'onda stera, ne vai non fa pettinaro ne pete spetto o poderà già lo petto. Allora dimmi tu, dimmi, dimmi come fossi, fossi picchi ave la vestisci da caccia bamba malerita. Allora dimmi tu, dimmi, dimmi come fossi, fossi picchi dimmi. Sare cosce ma varia una tala fatta ta ta ta ta ta ta. Pensano a te, passo le mie giornate sola dentro lo letto, abbrocio io l'uomo è morto riato, è intrubulato e già ti ferma lo bruciato. Allora dimmi tu, dimmi, dimmi come fossi, fossi picchi, avi la vestiscita, caccia, bamba, maledetta. Allora dimmi tu, dimmi, dimmi come fossi, fossi picchi, dimmi. Le cosce ma varia. Allora dimmi tu, dimmi, dimmi come fosse, fosse perché città, caccia, bamba, maledetta. Allora dimmi tu, dimmi, dimmi come fossi, fossi, perché dimmi, vento fuori, hai già le cosce, ma varia. Goran Bregovic ve Carmen Consoli Folk di Raja'yla radyonuzdaydı. Giovanni Pellino olarak 1967 yılında dünyaya gelen İtalyan şarkıcı, söz yazarı, rapper, besteci, yapımcı, müzisyen Neffa var sırada. Kariyerine bir rock punk grubu olan Negazione'de davulcu olarak başlayan Neffa, daha sonra 1991'de hip hop topluluğu Isola Posse All Stars'a katılıyor. Paraguaylı futbolcu Gustavo Neffa'nın onuruna Neffa sahne adıyla devam ettiği kariyerinde Ferzan Özpetek'in Saturno Kontrosu çok önemli bir yer teşkil ediyor. Zira bu filmde yer alan tangosu Nastro Argento, Chuck D'Oro ve Globo D'Oro'da en iyi film müziği ödüllerini getiriyor kendisine. Şimdi Neffa'dan Passione'yi dinliyoruz. Dammi passione, anche se il mondo non ci vuole bene, anche se siamo stretti da catene e carne la crocifissione. Presto noi sogneremo distesi al sole di mille primavere, senza il ricordo di questa prigione, di un tempo lontano ormai. Abbracciami e non lasciarmi qui, lontano da te. Abbracciami e fammi illudere, che importa se questo è il momento in cui tutto comincia e finisce, giuriamo per sempre però, siamo in un soffio di vento che già se ne va. C'erano le parole, c'erano stelle che ho smesso di contare, perso nei giorni senza una ragione, nei viaggi senza ritornare. Ora tu non spiegare tanto lo sento. Dove vuoi il dolore? Quando la notte griderà il mio nome, nessuno ricorderà. Abbracciami e non lasciarmi qui, lontano da te. Abbracciami e fammi illudere, che importa se questo è il momento in cui tutto comincia e finisce. Giuriamo per sempre, però siamo in un soffio di vento che già se ne va. Siamo in un soffio di vento che già se ne va. Neffa Passione ile radyonuzdaydı. Bugün Itabella'dan en tutkulu aşk şarkılarından tangolar geçti. Bu vesileyle onur ayınızı kutlarım, çünkü aşk her zaman kazanır. Geçen Nisan'da 82 yaşında yaşama veda eden, İtalyan müziğinin çok dili bilen, çok türe selam veren, çok sevdiğim Kızıl Milvası var sırada. Belki de dünyanın en meşhur tangolarından biriyle veda edeceğiz. Ben Cansın Sayesen, La Comparsita ile kapatıyoruz. Hoşça kalın. Insieme a me.